Sogna più, ma vuol così cantar, oh, oh, oh, oh, anche mio nonno ahimè, con una gotta ai piè, balla la samba olè, olè, olè, olè. Babadù, babadù, babadù, babadù, babadù, nonno nella rumba, nonno nella conga, ma è la vera samba. Babadù, babadù, babadù, babadù, non è nata in Cina, né in Patagonia, forse a Babilonia. Babadù, babadù, babadù, babadù. Piede qui, l'altro lì, braccio in su, l'altro in giù, volta qua, gira là, ma che danza originale. Nonno nella rumba, nonno nella conga, ma è la vera zamba. Babadù, babadù, babadù, babadù, babadù, babadù, babadù. L'altro lì, braccio in su, l'altro in giù, volta qua, gira là, ma che danza originale. Nonno nella rumba, nonno nella conga, ma è la vera samba. Babadù, babadù, babadù, babadù, babadù, babadù, babadù. Babadù, babadù, babadù, babadù, babadù, babadù, babadù, babadù, babadù.